Dimissioni Berlusconi, ora fuori dai coglioni. Non vogliamo ballerine, tanto meno padroni. Soldi sporchi, lavati con finte illusioni. Vi siete rubati tutto, pure le nostre pensioni. Fuori dall'Italia, la gente ci contesta. Ci credono collusi con la vostra casta nefasta. La prospettiva per la mia nazione, piovono bulloni sull'attuale stato di cose. Telemetrico per un governo tecnico, ricetta Mario Monti per i conti a pagarmi la bolletta. Non arrivo a fine mese, non riesco a mangiare. Noi svoltiamo con l'affitto, tante case da occupare. Contrattare con le banche per il mutuo agevolato. Vado dritta dal cassiere con il volto travisato. Siamo tutti costretti a reato, pure l'impiegato. Nemico di chi? Il nemico è lo Stato. Il fatto è che al vostro gioco non giochiamo. Il punto è che col fuoco non ci bruciamo. Ci volete crumini e invece ci organizziamo. Ve lo scordate, la crisi non la paghiamo. Fra il modello di vita moderno e scoppa cura al tuo orticello, sì. Coltiva la paura e resta sveglio, perché dietro il muro non sai chi sei, no. Ed ogni tuo fratello è solamente un potenziale Jesse James. Con niente non conta, se alcuno sputo, sì. Può essere sorgente per qualcuno che non ha mai bevuto, ma esce odio dai termosifoni, sì. Intasa i fuori, oh. Tipo peste bubonica nell'Europa dei signori, yeah. I padroni fanno il tifo perché fuori, sì. Sia collettiva sola la partita, la rabbia di chi suda. Scrivono promesse sul bagno asciuga, tanto il mare di interesse arriva prima che anche una sia adempiuta. La gabbia chiusa da noi stessi, sì. Chi aveva venduta alle emittenti, sì. Rammenti, sì. Pane e circensi, contenti, no. Coglioni, guardate le previsioni, sì. Vi aspettate l'estate, ma fuori piovono bulloni, oh. Piovono bulloni da un cielo grigio cenere, lacrime d'acciaio che cadono dall'etere. Sicario personale col mirino sul mio cranio. Piovono bulloni su un mondo al contrario. Piovono bulloni da un cielo grigio cenere, lacrime d'acciaio che cadono dall'etere. Sicario personale col mirino sul mio cranio. Piovono bulloni su un mondo al contrario. Bene in questa nazione sfondassi con la canzone, ma si dà tutto sommato anche sfondassi col teatro. Ma tanto non me ne vado, la bolletta non la pago, perché faccio il mantenuto per gli affari monofiuto. Sto seduto sul divano e mi accontento dello strano susseguirsi delle cose. Prima 99 posto, ora 99 pose. Facciamo tutti le foto sulla moto a 1000 giri. In strada sopra i gradini con la tipa che ci abbraccia. La nostra bella faccia camminando sulla spiaggia. E l'ennesima traccia sul nostro bel paese. E la prossima la faccio sempre sul bel paese. Sì, ma sul formaggio, non sui conti a fine mese. Che ho sempre scritto a cazzo, mi sembra più che palese. E c'è solo un vantaggio, che su di me non hai pretese. Sono solo un miraggio come Cristo nelle chiese. È da anni che piovono bulloni, è chiaro. Non ripari ai danni, stai solo provando a metterti a riparo. Dal paese delle falsità, dove la vita, la finta moralità. Quanto costa la felicità? Perché regna la scienza degli imbrogli. Finirà che ci sarà pubblicità pure nei sogni. E come ti comporti? Un po' te ne vergogni. Siamo un popolo di sordi, ci si esprime con il sole. Ed io non accetto il loro metodo. Le leggi che tendono, schemi e criteri in base ai quali scelgono. Non voglio parlare di merito, ma qua manca l'ossigeno. Una nazione coi polmoni di un vecchio decrepito. E tanto spendono colate di cemento, promesse che di certo non mantengono, è lecito. E tanto sale il debito, non parlo di soldi, voi siete in debito nei nostri confronti. Piovono bulloni da un cielo grigio cenere, lacrime d'acciaio che cadono dall'etere. Sicario personale col mirino sul mio cranio. Piovono bulloni su un mondo al contrario. Piovono bulloni da un cielo grigio cenere, lacrime d'acciaio che cadono dall'etere. Sicario personale col mirino sul mio cranio. Piovono bulloni su un mondo al contrario.